E buongiorno a tutte e a tutti, siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, alle 16 è tempo di Attica Blues. Così come ormai da un mese a questa parte anche la puntata di oggi è dedicata ai live, alle esibizioni dal vivo, questa volta focalizzate sul jazz. E partiamo subito dal 1953 per una serata destinata a restare nella storia. Infatti sul palco protagonista è una all-star band, diciamo così, chiamata The Quintet e formata dal sassofono contralto di Charlie Parker, dalla tromba di Dizzy Gillespie. Il piano era quello di Bud Powell, al contrabbasso Charles Mingus e Max Roach alla batteria. E noi apriamo proprio da questo concerto alla Massey Hall di Toronto. Questa è All the Things You Are. Concerto è una serata che, come detto, poi diventerà memorabile anche poi a dispetto delle premesse. E infatti la stessa sera del concerto era previsto un incontro di box che avrebbe inchiodato americani e canadesi alla radio. L'incontro era quello fra Joe Walcott e Rocky Marciano, che in realtà durò pochissimo. Walcott poté resistere solo un paio di minuti. E durante anche la serata fu concessa una pausa per permettere al pubblico di assentarsi per ascoltare proprio la radiocronaca in una sala adiacente. Ma ormai, diciamo, la frittata era fatta e nella gigantesca sala della Massey Hall di Toronto, da 2750 posti a sedere, c'erano meno di 200 persone. Ancora pare che Charlie Parker non arrivò troppo lucido alla serata e così si dimenticò il suo sassofono e si è dovuto fare prestare da un negozio nei pressi del teatro un Grafton di plastica bianca, proprio come quello che usava all'epoca un giovane Ornette Coleman. Thank you. e lasciamo questo incredibile quintetto per incontrarne un'altra formazione altrettanto, se non ben più importante. Parliamo del sestetto di Miles Davis qui al Newport Jazz Festival del 1958. Un luogo che ha portato tanta fortuna a Miles, infatti qualche edizione prima fu notato dai discografici della Columbia e messo sotto contratto una volta che avevano sentito la sua interpretazione di Round About Midnight. Qui siamo nel 1958, ossia l'anno prima dell'uscita di Kind of Blue, e la formazione è la medesima, ossia Cannibal Adderley al sax contralto, al tenore John Coltrane al piano, Bill Evans, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria, ovviamente Miles Davis alla tromba. Quella che loro eseguono è un standard davvero caro a Miles, Bye Bye Blackbird. Hey! Ancora negli anni 50, ma ci trasferiamo a Parigi, al teatro degli Champs-Élysées. È il 18 dicembre del 1959 e qui siamo per assistere al concerto dei Jazz Messenger di Art Blakey. Un concerto che è stato sporadicamente disponibile su varie etichette, ma quella che noi abbiamo scelto è quella della Verve, che garantisce un suono migliore. Il gruppo di Blakey a quel tempo è formato da Lee Morgan alla tromba, Way Shorter al tenore e Jimmy Merritt al contrabbasso, e qui anche per questa occasione speciale il piano è ancora quello di Bud Powell. E il gruppo qui esegue proprio una versione di Bouncing with Bud, un brano a firma di Bud Powell. questo invece è il contralto del sassofonista francese Bernie Whelan. Arrivano nel 2005 quando Larry Applebaum, supervisore della Library of Congress, si imbatté in una registrazione della Carnegie Hall. E che registrazione possiamo dire? E infatti era l'incontro del pianista Thelonious Monk con il sassofonista John Coltrane in un quartetto poi completato da Amel Abdul-Malik al contrabbasso e Shadow Wilson alla batteria. Un concerto tenutosi il 29 novembre del 1957 e che vedeva i quattro eseguire 9 brani, tutti a firma di Thelonious Monk, e noi ci andiamo ad ascoltare questa Evidence. Thank you. uscito nel 2005 per la Blue Note Records, che vedeva anche un splendido book all'interno con articoli e recensioni a firma di Amiri Baraka e Ashley Khan, fra i tanti. Il meraviglioso piano di Bill Evans. Bill Evans all'inizio degli anni 60 è diventato famoso con il contrabbassista Scott LaFaro e il batterista Paul Motion per aver rivoluzionato i canoni del trio jazz, ed erano anche diventate memorabili quelle sue esibizioni al Village Vanguard del 1961. E qui siamo qualche anno più tardi, siamo il 30 e il 31 maggio del 1963 e siamo nell'altra costa, a Los Angeles, allo Shelly Man Hall di Hollywood. La formazione qui prevede Chuck Israels al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria, in un disco meno famoso ma altrettanto prezioso. E qui ad essere ancora più interessanti sono i brani meno conosciuti, proprio come questa Swedish Pastry. We'll be right back. E rimaniamo nel 1963, ma cambiamo costa e ritorniamo a New York, in quel club dedicato a Charlie Parker. Un club in cui il sassofonista non ha mai potuto metterci piede, in quanto in quegli anni non aveva la cabaret card che serviva per esibirsi in locali in cui si versavano alcolici. Ovviamente parliamo del Birdland, e il 18 novembre del 1963 è di scena il quartetto di John Coltrane. McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria a completare questo storico quartetto, qui poi diventato famoso in questo disco uscito per la Impulse per un'interpretazione memorabile di Alabama. Ma noi abbiamo scelto uno standard, questo è I Want to Talk About You. Questo è l'inconfondibile sound del contrabbassista Charles Mingus, che nel 1960 diresse una delle sue migliori formazioni, senza pianoforti ma con Eric Dolphy al clarinetto basso, al flauto e al contralto, il trombettista Ted Carson e il batterista Danny Richmond. Qui siamo a Joie Le Pen per l'Antibes Jazz Festival, appunto il 13 luglio del 1960. E a potenziare questa già favolosa band c'è anche il tenore di Brooker Erwin. Questa è Wednesday Night Prayer Meeting, uno dei temi più famosi di Charles Mingus. Let's go. Rimaniamo in Europa, siamo in Belgio nel 1962, era il 5 agosto e qui di scena è ancora una volta una band davvero straordinaria. Parliamo di quella capitanata dal sassofonista Cannonball Adderley, qui accompagnato dal fratello Nat Adderley alla cornetta, Youssef Latif al sax tenore e al flauto, Joe Zawinul al piano, Sam Jones al contrabbasso e Louis Hayes alla batteria. Qui sono cinque i brani che compongono questo album davvero incredibile uscito per la Riverside nel 1962 e noi ci ascoltiamo questa Work Song. Thank you. Galattica Blues volge al termine anche di questa puntata dedicata ai grandi live del jazz. Noi per fortuna abbiamo tempo ancora per un ultimo brano e chiudiamo in bellezza con le sonorità festose di Sonny Rollins per questo suo Road Show volume 3 uscito nel 2014 per la Doxy Records. A completare la formazione c'è Clifton Henderson al trombone, Peter Bernstein alla chitarra, Bob Crashaw al basso, Kobe Watkins alla batteria e Sammy Figueroa alle percussioni. Ovviamente Sonny Rollins al sax tenore per questo suo traditional che è poi diventato un marchio di fabbrica, Don't Stop di Carnival. Darvi appuntamento a giovedì prossimo in cui proseguiremo questo nostro viaggio intorno ai concerti del jazz. Io vi ricordo il sito della radio www.ondarossa.info dove troverete tutti i podcast e le scalette di questa come di tutte le trasmissioni di questa piccola grande radio. Io vi ricordo anche le nostre pagine social, Lattica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e vi ricordo anche la ricchissima playlist di musica nera su Spotify. In tutti i casi basta cercare Attica Blues. E allora appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa, sempre Attica Blues.